Come abbiamo visto, nella Grecia classica e poi di nuovo ai tempi di Gesù, le donne hanno effettivamente avuto un forte impatto sul miglioramento della società. Ma forse, a tale proposito, il caso più straordinario è quello del movimento sociale più profondamente umanizzante dell'era moderna, che ancora una volta viene quasi completamente ignorato, tranne che dalle fonti femministe. Si tratta proprio del movimento femminista, esploso per la prima volta nel XIX secolo e che nel XX ha conosciuto una nuova vita. Anche se è un fatto generalmente omesso dai nostri consueti libri di storia, il lavoro sconosciuto e ignorato di centinaia di femministe dell'Ottocento ha evidentemente contribuito a migliorare in modo considerevole la situazione della metà femminile dell'umanità. Nell'ambito della vita privata, queste madri del femminismo moderno hanno liberato le donne da leggi che approvavano le violenze sulle mogli. Economicamente, le femministe hanno contribuito a liberare le donne da leggi che davano ai mariti il controllo delle proprietà della moglie. Esse ottennero l'accesso delle donne all'istruzione superiore e aprirono professioni come l'avvocatura e la medicina alle donne, arricchendo considerevolmente le loro vite e quelle delle loro famiglie. Ma liberando le donne dalle forme vistosamente oppressive del dominio maschile, il movimento femminista del XIX secolo contribuì ad avviare la spinta gilanica del nostro tempo anche in un altro modo, che come al solito risulta chiaro solo se guardiamo al di là dei consueti manuali di storia, offrendo la possibilità a un numero di donne mai in precedenza così elevato di ottenere se non altro una base di partenza nel mondo al di fuori delle loro case. Questo movimento ha ampiamente incivilito l'umanità nel suo complesso. Infatti, grazie all'impatto dell'ethos femminile, personificato da donne ormai in procinto di entrare in massa nel mondo pubblico come Florence Nightingale o Jane Addams, si crearono nuove professioni come l'assistenza sanitaria e sociale organizzata, il movimento abolizionista per la liberazione degli schiavi ottenne un sostegno fondamentale e diffuso e il trattamento dei matti e dei ritardati mentali divenne più umano. Inoltre, questa visione più femminile o mutuale dei rapporti umani, caratterizzata dall'affiliazione più che da gerarchizzazioni basate sulla violenza, si è diffusa nella corrente di pensiero prevalente della società grazie al movimento femminista del XX secolo. Come quello del XIX secolo, il movimento di liberazione della donna ha notevolmente migliorato la condizione femminile. In un'epoca in cui i mutamenti tecnologici stavano sempre più facendo passare le donne da ruoli subordinati nella famiglia a ruoli subordinati nel lavoro, il movimento di liberazione della donna ha lottato per ottenere nuove leggi per proteggere la donna dentro e fuori casa. Ma ancora una volta, questa seconda ondata del femminismo moderno ha notevolmente fatto progredire la situazione sia della donna sia dell'uomo, infondendo una coscienza maggiormente gilanica a sfere di attività che un tempo erano solidamente sotto il controllo maschile. Così come nell'Ottocento, le donne hanno svolto un ruolo importante nel movimento per la liberazione degli schiavi neri. Nel XX secolo, esse hanno fornito nuovamente un massiccio e fondamentale sostegno, pagato a volte con la vita, al rafforzamento dei diritti civili dei neri. Analogamente, in tutto il mondo occidentale, centinaia di organizzazioni, grandi e piccole, che cercano di determinare un ordine sociale più giusto, pacifico e armonioso ecologicamente, sono in gran parte costituiti da donne. Ovviamente non tutte le donne portano valori gilanici nella vita pubblica. Per esempio, le poche donne che a volte riescono a raggiungere il vertice delle gerarchie maschili, come Indira Gandhi o Margaret Thatcher, spesso riescono a farlo proprio perché sono in grado di dimostrare continuamente di non essere troppo tenero femminili, in poche parole, di non essere troppo donne. E chiaramente anche molti uomini oggi si stanno prodigando per la pace e per un miglioramento sociale, come hanno fatto in altri periodi di rinascita gilanica. Ma uno dei motivi per cui agiscono in questo modo è che si tratta di periodi in cui i valori più femminili e le donne stesse sono meno privatizzati. Lo dimostrano gli avvenimenti della fine degli anni 60 e dei primi anni 70 del XX secolo, quando numerosi americani rifiutarono l'idea maschile, tra virgolette, che la guerra del Vietnam fosse patriottica e nobile, sempre tra virgolette. In questo periodo non solo molte donne rifiutarono di essere relegate nella sfera privata delle case dei maschi, Anche molti uomini rigettarono gli stereotipi maschili che impongono ai veri uomini di non essere effeminati, vale a dire gentili, pacifici e affettuosi. Ciò non significa che ci sia una relazione di causa ed effetto semplice e lineare tra i mutamenti della condizione della donna e la crescita dei valori femminili. In realtà, quando un considerevole numero di donne chiede vigorosamente o ottiene dei miglioramenti, è generalmente imminente un improvviso arretramento androcratico. Durante il movimento di controcultura degli anni 60 e 70 del Novecento, per esempio, i giovani maschi rifiutavano l'eroismo e la virilità della guerra e passavano a stili di abbigliamento e di acconciature più effeminati, tra virgolette, mentre le donne ottenevano importanti miglioramenti nella parità dei diritti. Ma proprio nel momento in cui venivano energicamente sfidati i vecchi stereotipi sessuali, le forze della cosiddetta reazione maschile e conservatrice stavano già radunando le forze dell'anti-ERA, Equal Rights Amendment o emendamento per la parità dei diritti. Analogamente, nel Rinascimento e nell'età elisabettiana, epoche in cui si notano forti rinascite gilaniche, appaiono anche evidenti segni di una parallela resistenza androcratica. Da una parte constatiamo una tendenza verso pari opportunità, distruzione per le donne delle classi dirigenti, e grazie a ciò l'inizio della letteratura femminista moderna in opere come La città delle dame di Christine de Pizan; dall'altra si intensifica lo svilimento delle donne. Nuove leggi limitano il loro potere politico ed economico, appare un genere di letteratura che mostra le donne nei ruoli femminili, tra virgolette, loro propri, vale a dire sottomesse. Tutto questo ci porta a un ultimo punto fondamentale. Nonostante un certo indebolimento periodico dell'infrastruttura androcratica nei periodi di influenza gilanica, fino in tempi molto recenti la condizione di sottomissione delle donne è rimasta sostanzialmente immutata. E lo stesso vale per la condizione subordinata di valori come affiliazioni, affetto e non violenza, tradizionalmente associati alla donna. Come abbiamo visto nel corso della storia, la prima linea di difesa del sistema androcratico è stata la riaffermazione del controllo maschile. Più precisamente abbiamo visto che la regressione verso una maggiore sottomissione della donna è un primo indizio dell'imminenza di un periodo storico repressivo e cruento. La resistenza al movimento femminista del XIX secolo fu caratterizzata da una recrudescenza di quella che i verbali penali chiamano violenza aggravata, percosse domestiche gravi con fratture ossee, l'abbruciamento della moglie, il suo accecamento cavandole gli occhi. Siccome lungo tutto il corso della storia la violenza contro le donne è stata la risposta del sistema androcratico a qualsiasi minaccia di un mutamento fondamentale, sulla scia del movimento femminista del XX secolo si è verificata una crescita consistente della violenza contro le donne. Esempi sono l'abbruciamento delle vedove in India, le esecuzioni pubbliche in Iran, carcerazioni e torture nell'America Latina, le percosse alle mogli in tutto il mondo, il terrorismo universale degli stupri. Gli studiosi calcolano che attualmente negli Stati Uniti se ne compia uno ogni 13 secondi. La funzione dell'attuale massiccia e brutale violenza contro le donne non è difficile da capire. Se si vuole mantenere l'androcrazia, le donne devono essere represse a ogni costo. Se la violenza e gli incitamenti alla violenza tramite la riesumazione di calunnie religiose contro le donne e l'identificazione del piacere sessuale con l'uccisione, la violenza e la tortura delle donne sta aumentando in tutto il mondo, è perché mai prima d'ora il dominio maschile è stato sfidato in modo tanto energico da un movimento delle donne per la liberazione umana così globale, solidale e sinergico. Il pendolo oscilla costantemente nella storia dell'umanità tra Gilania e androcrazia. L'oscillazione del pendolo ha sempre segnato il passaggio dalla pace alla guerra, ogni qualvolta i valori femminili hanno conosciuto un periodo di crescita, minacciando di trasformare il sistema. Un'androcrazia ridesta e spietata ci ha ricacciati indietro. Sarà l'attuale moto di ritorno del pendolo inevitabilmente causa di crescenti violenze interne e internazionali con un parallelo aumento della repressione delle libertà e dei diritti civili? Davvero non c'è scampo da un'altra guerra, questa volta nucleare? Sarà dunque la fine dell'evoluzione culturale che iniziò piena di speranza nell'epoca della Dea, quando il potere supremo era ancora quello apportatore di vita del calice, o stiamo ormai per conquistare la libertà ed eviteremo questa fine. Negli ultimi 25 anni del secolo scorso, disillusa dal fallimento delle ideologie progressiste laiche, in tutto il mondo la gente stava tornando a credi religiosi fondamentalisti, cristiani, musulmani e di altro genere. Impaurita da segnali crescenti di un imminente caos globale, masse di persone ritornavano alla vecchia idea androcratica che ciò che davvero conta non è la vita qui sulla Terra, ma piuttosto l'eventualità di una punizione crudele ed eterna per aver disubbidito a Dio e ai comandamenti degli uomini che sulla Terra parlano in suo nome. Una delle risposte possibili è quella di riportare la società a un immaginario passato migliore, ai bei vecchi tempi, come si dice, prima che le donne e gli uomini inferiori, tra virgolette, mettessero in discussione il posto loro assegnato nell'ordine naturale androcratico. A noi risulta evidente che esistono alternative a un sistema che si fonda sul predominio, sostenuto dalla forza di una metà dell'umanità sull'altra. Appare chiaro anche che la grande trasformazione della società occidentale, iniziata con l'illuminismo del XVIII secolo, non è fallita, è solo incompleta. Le idee emerse dall'illuminismo sono infatti nuove solo in parte. Affondano le loro radici nel lontano passato che abbiamo esaminato nei primi capitoli. Sono idee gilaniche, più adatte al sistema di organizzazione sociale mutuale che non a quello dominatore. Durante l'illuminismo questo tipo di idee era riapparso in forme più moderne nei salotti intellettuali di donne come Madame du Châtelet, Madame Geoffrin, Ninon de l'Enclos, Madame de Lafayette. Da principio, dopo tanti secoli di disuso o di uso errato, esse erano poco più che novità, intrattenimento intellettuale per una piccola elite colta, ma poi, grazie a migliori tecnologie di comunicazione di massa, come la stampa e successivamente l'istruzione di massa, queste idee che non si adattavano a un modello dominatore della società cominciarono a replicarsi dappertutto. L'idea di progresso era una delle prime e più importanti. Perché se l'universo non era un'entità immutabile, controllata da una divinità onnipotente, come volevano i dogmi religiosi, e se l'uomo, tra virgolette, dopo tutto non era creato a immagine di Dio, sarebbero stati concretamente possibili dei miglioramenti nella natura, nella società e nell'essere umano. Ciò che generalmente si ignora è che non si rifiutava la religione, bensì la premessa androcratica, che un ordinamento sociale, statico e gerarchico fosse la volontà di Dio, tra virgolette. Il termine umanità era, e purtroppo in molti luoghi ancora è, sinonimo di uomini, maschi, sesso maschile. Di conseguenza, nel XVIII e XIX secolo, il nuovo patto per i diritti umani era generalmente considerato applicabile solo agli uomini bianchi. Infatti, all'inizio riguardava solamente, appunto, uomini bianchi, liberi e abbienti. La rivoluzione americana e successivamente quella francese sfidarono le istituzioni monarchiche, per tanti secoli un fondamento dell'organizzazione sociale androcratica. Nel cuore di una quantità sempre più grande di persone, termini come uguaglianza, libertà e progresso sostituirono parole come fedeltà, ordine e obbedienza. Famiglie meno autocratiche cominciarono a sostituire quelle a rigido dominio maschile, in cui la parola di padri e mariti, come quella dei re, era la legge assoluta. Ma oggi il continuo indebolimento del controllo maschile all'interno della famiglia viene presentato da molti come una causa del pericoloso declino di quest'ultima. La graduale erosione dell'autorità assoluta di padre e marito era una premessa indispensabile per tutto il movimento moderno verso una società più giusta e ugualitaria. Nel corso del XIX e XX secolo emersero anche altre moderne ideologie umanistiche gilaniche: abolizionismo, pacifismo, anarchia, anticolonialismo, ambientalismo. Ma come nel proverbio dei ciechi che descrivono un elefante, ognuna di esse presentava un aspetto del mostro androcratico come la totalità del problema. Allo stesso tempo, queste ideologie non hanno evidenziato il fatto che nel cuore del mostro c'era un modello della specie umana in cui il maschio è dominatore e la donna è dominata. La sola ideologia che sfida frontalmente questo modello dei rapporti umani, oltre che quello di gerarchizzazione basata sulla violenza, è naturalmente il femminismo. Per questo motivo, esso occupa una posizione unica sia nella storia moderna che in quella dell'evoluzione culturale. Lungo tutto il corso della storia umana, nell'antica Grecia, Roma, nell'era dei trovatori e in quella elisabettiana, nel Rinascimento e nell'Illuminismo, si è spesso riproposta, come la definirono Marx e Engels, la questione della donna. Ma come ideologia moderna, il femminismo non apparve che nella metà del XIX secolo. Nonostante molte delle sue basi filosofiche siano già state discusse in precedenza da donne come Mary Wollstonecraft, Frances Wright, George Sand, Margaret Fuller, la sua data di nascita ufficiale è il 19 luglio 1848 a Seneca Falls, nello stato di New York. Qui, nella prima riunione della storia tenuta per promuovere una lotta collettiva delle donne contro la sottomissione e la degradazione, Elizabeth Cady Stanton fece un'affermazione fondamentale. Tra le molte questioni importanti che sono state sottoposte al pubblico, disse, nessuna riguarda così da vicino l'umanità come quella che tecnicamente viene definita dei diritti delle donne. Sebbene la crescente espressione di questa affermazione oggi sfidi il nostro sistema con un'autorità e una forza senza precedenti, il femminismo è ancora visto da molti come solo un problema delle donne. Di conseguenza, siccome il femminismo continua a essere tenuto separato dalla tendenza ideologica prevalente, le altre ideologie progressiste, dal centro alla sinistra, continuano ad essere piene di incongruenze. Per contro, in un quarto gruppo di ideologie moderne, queste complicazioni non esistono. Non ci si pone il problema di spinte contraddittorie in avanti e all'indietro. Sono le ideologie inequivocabilmente, sfacciatamente androcratiche, che hanno cominciato a svilupparsi nel XIX e XX secolo grazie alle opere di uomini come Nietzsche e Schopenhauer. Poiché siamo state istruite e istruiti secondo le concezioni della realtà necessarie a conservare il sistema prevalente androcratico, persino la grande potenza logica delle nostre menti trova difficoltà a fare il collegamento apparentemente lampante tra un modello dominatore dei rapporti umani e un modello dominatore della società. I due tipi fondamentali dell'umanità sono il maschile e il femminile. Il modo in cui si struttura il rapporto tra uomini e donne è dunque un modello fondamentale per le relazioni umane. Di conseguenza, un modo dominatore e dominato di rapportarsi agli altri esseri umani viene interiorizzato fin dalla nascita, da ogni bambino e bambina allevati in una famiglia tradizionale a dominio maschile. Nel caso del razzismo, questo modello dei rapporti umani viene esteso dai membri di un sesso diverso a quelli di una razza diversa. Nel fenomeno collaterale del colonialismo, il modello si estende ulteriormente ai membri di una nazione differente. È un modello che nel corso della storia si è prestato alla razionalizzazione di ogni possibile variazione sul tema dello sfruttamento economico e sociale. Se ci lasciamo alle spalle le vecchie etichette ideologiche che contrappongono democratico e conservatore, religioso e laico, destra e sinistra, la storia moderna diventa per molti versi notevolmente più chiara. Il femminismo è l'unica ideologia progressista a evitare l'incoerenza interna, applicando principi come uguaglianza e libertà all'umanità intera, non soltanto a una metà. Solo il femminismo prevede un riordinamento dell'istituzione sociale fondamentale, la famiglia, e solo il femminismo fa un esplicito collegamento di sistemi tra la violenza maschile dello stupro e delle percosse alla moglie e la violenza maschile della guerra. Per il nostro attuale sistema ideologico, il femminismo può essere considerato un potente attrattore. Quando era ancora ai margini del sistema, durante il XIX e XX secolo, il femminismo ha avuto la funzione di attrattore periodico e ha guidato il movimento intellettuale verso una visione del mondo in cui non si sottovalutano più le donne e la loro femminilità. Ma nel nostro periodo di crescente squilibrio di sistema, il femminismo potrebbe diventare il nucleo per un'ideologia gilanica nuova e pienamente integrata, incorporando allo stesso tempo gli elementi umanistici delle nostre ideologie religiose e di quelle laiche. Questa moderna visione del mondo gilanica potrebbe a lungo termine fornire quell'ideologia internamente coerente e unificante necessaria per sostituire una società dominatore con una mutuale. Filosofe e attiviste femministe di tutto il mondo hanno invocato una nuova etica, sia per l'uomo che per la donna, basata su valori femminili come non violenza e solidarietà. E innumerevoli artiste, scrittrici, teologhe, scienziate femministe stanno producendo nuove teorie e nuove immagini adatte a un mondo mutuale e non dominatore. Ci sono anche tentativi di fondare movimenti politici sostanzialmente gilanici, basati sull'unione e non sulla gerarchizzazione. Si dice che la tecnologia moderna sia un pericolo non solo per la nostra evoluzione culturale, ma anche per quella biologica. Fino a che prevale l'androcrazia, la tecnologia avanzata costituisce veramente una grande minaccia per la nostra sopravvivenza. Tuttavia anche questa minaccia dà un ulteriore impulso a una radicale trasformazione dei sistemi. A questo livello base, l'attuale spinta gilanica può essere considerata un processo di adattamento causato dall'istinto di sopravvivenza della nostra specie. Il sistema prevalente si sta rapidamente avvicinando al suo logico termine evolutivo, il capolinea di una svolta androcratica durata 5.000 anni. Ci può attendere un massacro finale, causato dai violenti sforzi di questo sistema morente per mantenere il suo dominio, ma gli spasmi dell'agonia dell'androcrazia potrebbero anche essere le doglie del parto, della gilania, l'apertura di una porta verso un nuovo futuro. 13. Il balzo in avanti dell'evoluzione verso un futuro mutuale. Il potere di un'altra persona o gruppo di persone veniva solitamente considerato pericoloso. Bisogna controllarli, altrimenti loro avrebbero controllato noi. Ma nell'ambito dello sviluppo umano questa non è una formulazione valida, è vero il contrario. In generale, maggiore è lo sviluppo del singolo individuo, più ella o egli sarà abile ed efficiente e meno spinta a limitare il prossimo. Un motivo centrale della letteratura femminista del nostro secolo è stato non solo l'esplorazione dei rapporti di potere esistenti, ma anche dei modi alternativi di considerare e utilizzare il potere, ovvero il potere di affiliazione. È una concezione del potere vincente che non si limita a un o si vince o si perde. In termini psicologici è un modo di progredire nel proprio sviluppo senza dover necessariamente limitare quello degli altri o delle altre. In termini visuali o simbolici si tratta della rappresentazione del potere come unione. Da tempo immemorabile esso è stato simboleggiato dal cerchio o dall'ovale, l'uovo cosmico della dea o il grande cerchio, anziché dalle linee affiliate di una piramide ove, in qualità di dei, capi delle nazioni o delle famiglie, i maschi dominano dal vertice. Per lungo tempo tenuto nascosto dall'ideologia androcratica, il segreto della trasformazione espresso dal calice era visto, nelle epoche precedenti, come la consapevolezza della nostra unità e del collegamento tra noi e il resto dell'universo. Grandi veggenti e mistiche e mistici hanno continuato ad esprimere questa visione, descrivendola come il potere di trasformazione di ciò che i primi cristiani e le prime cristiane chiamavano agapè. È l'unione elementare e istintiva tra esseri umani, in sostanza l'amore disinteressato che prova una madre per la figlia o il figlio, un tempo espresso mitologicamente nell'amore divino della grande madre per le sue creature umane. In questo senso, il riallacciarsi alla precedente tradizione spirituale del culto della dea, collegata al modello mutuale della società, è più che una riaffermazione della dignità e del valore di una metà dell'umanità. E non è soltanto un modo di raffigurare i poteri che regolano l'universo di gran lunga più sereno e rassicurante. Ci offre anche un sostituto positivo dei miti e delle immagini che per tanto tempo hanno manifestamente falsificato i più elementari principi dei rapporti umani, dando più valore all'assassinio e allo sfruttamento che alla nascita e allo sviluppo. Nei primi capitoli di questo libro abbiamo visto come, all'inizio della nostra evoluzione culturale, il principio femminile, rappresentato dalla Dea, era il simbolo non solo della resurrezione o rigenerazione della morte nella vita, ma anche dell'illuminazione della coscienza umana per mezzo della rivelazione divina. Negli antichi riti misterici, la Dea rappresentava il potere della trasformazione fisica della divinità come ruota della vita che gira, nella sua totalità portatrice di nascita e di morte. Ma ella era anche il simbolo della trasformazione spirituale, la forza del centro che all'interno del ciclo procede verso la coscienza e la conoscenza, la trasformazione e l'illuminazione, da tempo immemorabile, le mete più alte dell'umanità. Ci sono spesso stati nella storia umana dei punti di biforcazione, punti di squilibrio sociale in cui si sarebbe potuta verificare una trasformazione dei sistemi fondamentale, quando apparvero nuove fluttuazioni o modelli di funzionamento più gilanici. Questi però non oltrepassarono mai le soglie di nucleazione che avrebbero indicato il passaggio dall'androcrazia a gilania. Per usare un'analogia familiare, fino a oggi il sistema androcratico si è comportato come un elastico. Durante i periodi di forte rinascita gilanica, per esempio all'epoca di Gesù, l'elastico si è teso notevolmente, ma in passato, quando si raggiungevano i limiti dell'androcrazia, esso scattava sempre all'indietro verso la sua forma originale. Oggi, per la prima volta nella storia, invece di restringersi, l'elastico si può spezzare e la nostra evoluzione culturale può, alla fine, trascendere i confini entro i quali siamo stati trattenuti per millenni. I futurologi dicono, usando tante parole, che dobbiamo abbandonare i valori spietati e di conquista solitamente associati alla virilità. Perché il bisogno di uno spirito di autentica cooperazione globale nei modi di una libera associazione, il bilanciamento dell'individualismo con l'amore e il fine normativo dell'armonia con la natura e non la sua conquista, non sono forse la riaffermazione di un maggiore ethos femminile? E a che cosa potrebbero riferirsi dei drastici cambiamenti del livello normativo o una metamorfosi delle premesse culturali fondamentali e delle istituzioni sociali se non alla sostituzione di una società dominatore androcratica con una società mutuale gilanica? Questa trasformazione comporterebbe ovviamente un mutamento della nostra direzione tecnologica, dall'uso della tecnologia avanzata per la distruzione e il dominio a quello per sostenere e migliorare la vita umana. Allo stesso tempo diminuirebbe lo spreco eccessivo che oggi danneggia i più bisognosi. Soprattutto, il passaggio dall'androcrazia alla gilania contribuirebbe a far cessare la politica di dominio e l'economia di sfruttamento e consumismo che nel nostro mondo vanno ancora di pari passo. Oggi sono in molti a riconoscere che nella loro forma attuale né il capitalismo né il comunismo offrono una via d'uscita ai nostri crescenti dilemmi politici ed economici. In particolare, la politica del dominio e l'economia dello sfruttamento sono esemplificate in tutte le androcrazie da un'economia duale, in cui si sfruttano le attività produttive non retribuite o al massimo sottopagate delle donne. Le donne rappresentano la metà della popolazione mondiale, compiono 2/3 del lavoro mondiale in termini di ore, guadagnano 1/10 di quello che guadagnano gli uomini e possiedono 1/100 delle proprietà rispetto agli uomini. Il lavoro non retribuito delle donne, che in Africa si occupano quasi totalmente della coltivazione alimentare e in tutto il mondo forniscono gratuitamente una mole di assistenza sanitaria pari a quella di tutte le istituzioni mediche ufficiali messe insieme, viene abitualmente escluso dal computo della produttività nazionale. L'attuale militarismo maschile è l'attività umana che comporta la più intensa dispersione di energia, poiché trasforma le energie accumulate direttamente in distruzione e rovina, senza che ne derivi alcun utile appagamento dei bisogni essenziali della vita umana. Ma se una società mutuale gilanica sostituirà quella dominatore e androcratica, possiamo attenderci anche nuove invenzioni economiche. Il nucleo di questo nuovo ordinamento economico sarà la sostituzione dell'attuale fallimentare economia duale, in cui il settore economico a dominio maschile, ottenendo in cambio denaro, posizione sociale e potere nelle sue fasi industriali, deve sfruttare selvaggiamente sia il sistema sociale che quello economico. Possiamo invece aspettarci che l'economia informale, non monetizzata, produzione, conduzione familiare, educazione, volontariato e tutte le attività cooperative che consentono quelle che oggi sono attività competitive troppo retribuite per risultare vantaggiose, sarà valutata e ricompensata adeguatamente. Ciò costituirà la base attualmente mancante di un sistema economico in cui la cura del prossimo non verrà apprezzata solo a parole, ma sarà l'attività umana meglio retribuita e perciò più stimata. Pratiche come la mutilazione sessuale femminile, le percosse alle mogli e tutti i modi più o meno brutali con cui l'androcrazia ha tenuto le donne al loro posto, naturalmente non saranno più viste come tradizioni consacrate, ma per quello che sono, crimini prodotti dalla crudeltà dell'uomo nei confronti della donna. E per quanto riguarda la crudeltà dell'uomo verso i suoi simili, non essendoci più miti ed epopee eroiche a glorificare la violenza maschile, anche le cosiddette virtù maschili di dominio e conquista saranno viste per quello che sono, aberrazioni brutali e barbare di una specie che si è scagliata contro se stessa, una malattia autoimmune. Grazie alla riaffermazione e alla celebrazione dei misteri della trasformazione simboleggiati dal calice, nuovi miti risveglieranno in noi quel sentimento perduto di gratitudine e di esaltazione della vita così evidenti nelle vestigia artistiche di Creta e del Neolitico. Ricollegandoci alle nostre radici psichiche più innocenti, prima che guerra, gerarchia e supremazia maschile diventassero le norme dominanti, questa mitologia non ci farà regredire psicologicamente a com'era il mondo nell'infanzia tecnologica della nostra specie. Al contrario, intrecciando il nostro antico patrimonio di miti gilanici con le idee moderne, ci farà progredire verso un mondo che sarà molto più che razionale, nel vero senso della parola, un mondo animato e guidato dalla consapevolezza che, sia ecologicamente che socialmente, c'è un legame indissolubile tra gli esseri umani e tra loro e l'ambiente. Insieme alla vita si celebrerà l'amore, compreso quello sessuale. Sicuramente rimarrà qualche forma di vincolo sessuale, come quello che oggi chiamiamo matrimonio, ma gli scopi fondamentali di questo vincolo saranno amicizia reciproca, appagamento sessuale, amore. Non si faranno più figli solo per tramandare il nome e la proprietà dei maschi. Tutte le istituzioni, non solamente quelle destinate all'educazione dei bambini, avranno come fine la realizzazione dei nostri grandi potenziali umani. Soltanto un mondo in cui si attribuisca il massimo valore alla qualità e non alla quantità può avere questo obiettivo. Quindi i figli e le figlie saranno meno numerosi e per questo saranno tenuti in gran conto. Donne e uomini si prenderanno cura attivamente degli anni formativi dell'infanzia. Non solo i genitori biologici, ma numerosi altri adulti e adulte avranno diverse responsabilità verso il più prezioso di tutti i prodotti sociali, il bambino, la bambina umana. Un'alimentazione razionale ed esercizi fisici e mentali saranno considerati requisiti indispensabili per la salute del corpo e della mente. L'educazione, anziché servire a istruire il bambino per adattarlo al proprio ruolo in un mondo gerarchizzato, come già si comincia a vedere, sarà un processo che dura tutta la vita, volto ad aumentare al massimo la flessibilità e la creatività in ogni fase dell'esistenza. In un mondo di questo tipo, in cui la politica sociale sarà subordinata alla realizzazione dei nostri potenziali evolutivi più elevati, ottenere la massima libertà tramite saggezza e conoscenza, uno dei principali interessi della ricerca sarà la prevenzione della malattia personale e sociale, sia del corpo che della mente. Inoltre, si esploreranno e coltiveranno a fondo i poteri della mente, oggi sempre più riconosciuti ma utilizzati solo in parte. Si scopriranno e si svilupperanno così potenziali mentali e fisici ancora inimmaginabili. Soprattutto, il mondo gilanico sarà un mondo in cui le menti dei bambini, femmine e maschi, non saranno più incatenate. Non saremo più educate sistematicamente alla limitatezza e alla paura per mezzo di miti che rivelano quanto siamo inevitabilmente perversi e malvagi noi esseri umani. Sarà un mondo in cui ai bambini e alle bambine non si racconteranno leggende su uomini onorati per la loro violenza o favole su fanciulli che si smarriscono in spaventose foreste in cui le donne sono streghe malvagie. Si racconteranno loro nuovi miti, leggende e storie in cui gli esseri umani sono buoni e pacifici e il potere della creatività e dell'amore, simboleggiato dal sacro calice, il santo contenitore della vita, è il principio dominante. In questo mondo gilanico, il nostro slancio verso giustizia, uguaglianza e libertà, la nostra sete di conoscenza e di illuminazione spirituale, il nostro anelito per l'amore e la bellezza, saranno alla fine liberati. E dopo la sanguinosa svolta della storia androcratica, sia le donne che gli uomini finalmente scopriranno cosa può significare vivere come esseri umani. Fine.